L'ossessione del sesso e la distorsione della spiritualità. Ma c'è un altro modo ancora, più insidioso, in cui il ruolo della Chiesa, autoproclamatasi controllore del sesso, è servito per mantenere scale gerarchiche fondate sulla paura e sulla forza. E per ironia della sorte, servì e continua a servire allo stesso identico scopo della pornografia, che la Chiesa tanto violentemente condanna. In apparenza, il dogma della Chiesa, per cui se non è rigorosamente per la procreazione e non per il piacere, il sesso è peccato anche nel matrimonio, segnala un disgusto e un disprezzo per il sesso sicuramente presenti. Tuttavia, se scaviamo più a fondo, quanto vediamo non è quel che di solito ci si aspetta dal disprezzo e dal disgusto, l'illusione di tutto quanto abbia a che fare con il suo oggetto. Al contrario, troviamo l'attenzione minuziosa della Chiesa per qualsiasi aspetto concepibile e inconcepibile del sesso. In breve, quel che troviamo sotto le spoglie della spiritualità è in realtà un'ossessione per il sesso. In un certo senso ciò non sorprende, poiché con l'importanza attribuita al celibato indubbiamente, la Chiesa riuscì perfettamente a produrre parecchi uomini cronicamente frustrati e quindi con la fissazione della sessualità. Ma la chiave sta nel modo in cui si produsse la fissazione. Infatti non si tratta soltanto del fatto che sotto la maschera della spiritualità la gerarchia ecclesiastica richiedeva l'accettazione di rigidi controlli sul sesso e sui preti al suo gregge, e neanche si tratta soltanto del fatto che con la scusa che gli uomini sono più spirituali delle donne, la Chiesa insisteva affinché gli uomini tenessero sotto controllo le donne, e in particolare la loro sessualità. Quel che la Chiesa ottenne, con quel suo continuo associare il sesso ai più tremendi e orribili castighi divini, ancora una volta, sotto la maschera della spiritualità, fu di erotizzare con grande efficacia il predominio e la violenza. In verità, quel che salta fuori, esaminando attentamente le infinite dichiarazioni solenni della Chiesa, i suoi editti e le sue leggi sul sesso, corrisponde proprio a ciò che esamineremo nel prossimo capitolo. La erotizzazione pornografica del predominio e della violenza. Perché gli avvertimenti lanciati dalla Chiesa sulla peccaminosità del sesso non erano affatto astratti, piuttosto, come pure vedremo nel prossimo capitolo, si esprimevano verbalmente e pittoricamente con le immagini più vivide delle torture corporee e delle sofferenze atroci dell'inferno. Pertanto, sebbene il tutto accadesse in nome della proibizione del piacere sessuale e non come nella pornografia, del suo raggiungimento attraverso la violenza e il predominio, anche la Chiesa associava costantemente il sesso alla violenza e alla dominazione. Inoltre, quando la Chiesa asseriva che anche nel matrimonio il sesso è peccato se non si pone come unico scopo la procreazione, si sentiva tenuta a prescrivere che anche in quel caso doveva essere praticato solamente nella posizione con il maschio sopra e la femmina sotto, efficacemente unendo ancora una volta sesso e predominio. Si ebbe così il domenicano Rolando da Cremona, il quale ingiunse alle persone corpulente di dimagrire per poter assumere quella che tuttora viene definita la posizione del missionario. E il prelato che redasse il Codex Latinus Monacensis 22233 arrivò ad affermare che la moglie che accetta di buon grado una deroga alla posizione normale commette un peccato grave quanto l'omicidio. Similmente, quando questi uomini rifiutavano la comunione a chiunque confessasse, come era tenuto a fare, il peccato di aver praticato il sesso per puro piacere, insegnavano con grande efficacia al loro gregge ad associare il sesso con il predominio e il castigo, e ciò offriva ai preti la possibilità di spiare nell'altrui vita sessuale e di fantasticare di conseguenza sul sesso in tutte le sue possibili variazioni. Si raggiunsero gli stessi scopi quando papi, vescovi e preti per anni lavorarono su manuali delle penitenze e tavole dei castighi per ogni tipo di peccato connesso al sesso. In tutti questi casi, quegli uomini legittimamente finivano con l'essere ossessionati dal sesso, mentre continuavano a rivendicare la purezza fisica e mentale. Il tutto mentre esercitavano il massimo controllo sui più intimi particolari della vita privata della gente. Dunque, a partire dall'VIII secolo in poi, i confessori furono tenuti a indagare sul controllo delle nascite, specie tra le donne. Ricevettero anche precise istruzioni dai superiori sulle penitenze da infliggere per il rapporto orale, le posizioni diverse da quelle del missionario, l'aborto, il rapporto anale, la bestialità e quant'altro si possa immaginare nel sesso. Per esempio, apprendiamo dal Decretum di Burcardo di Worms che i preti venivano istruiti ad affrontare i maschi in confessione come segue. Ti sei accoppiato con tua moglie o con un'altra donna da dietro come i cani? In tal caso, 10 giorni di penitenza a pane e acqua. Se ti sei accoppiato con tua moglie durante il periodo mestruale, allora 10 giorni di penitenza a pane e acqua. Se tua moglie si è recata in chiesa dopo il parto, ma prima della purificazione, allora farà penitenza per tutto il tempo che ancora avrebbe dovuto restare lontana dalla chiesa. E se in quel periodo ti sei accoppiato con lei, allora farai 20 giorni di penitenza a pane e acqua. Con le donne, le gerarchie ecclesiastiche erano spesso più severe. Per esempio, il vescovo Cesario decretò che nessuna donna può bere una pozione che la renda incapace di concepire. Ogni volta che l'avesse fatto, sarebbe stata ritenuta responsabile di altrettanti omicidi. Siccome il controllo maschile sulle donne era un bel sostegno della dottrina della Chiesa, non dovrebbe sorprenderci il fatto che la Chiesa medievale vietasse alle donne la contraccezione. In effetti, questo divieto si riallacciava pure alla persecuzione da parte della Chiesa delle donne che detenevano ancora parte dell'antico potere spirituale come sacerdotesse e curatrici, perché prima dei roghi delle streghe, alcuni contraccettivi a base di erbe e altre informazioni utili erano state tramandate di generazione in generazione da queste donne. Ne dovrebbe sorprenderci, se non dimentichiamo che il potere sessuale della donna era nell'antica religione associato alla sua capacità di dare la vita, e quindi sia con le mestruazioni sia con il parto, che la Chiesa proibì i rapporti sessuali con la donna mestruata o che aveva da poco partorito. Considerata la santificazione del dolore operata dalla Chiesa e non del piacere come nell'antica religione, non dovremmo neanche restare sorpresi leggendo che il vescovo di Parigi, Guglielmo d'Auvergne, scrisse nel XIII secolo che, siccome il piacere ostacola lo sviluppo dell'anima, era bello sapere che alcuni giovani restano freddi con le mogli anche se sono bellissime. Impossibile non essere sopraffatti dallo stupore leggendo come, all'incirca nello stesso periodo, un altro arcivescovo, Stephen Langton, scrisse che una donna deve sempre essere sessualmente disponibile per il marito anche a rischio della propria vita, affinché egli non cerchi il sesso altrove. E una moglie deve farsi uccidere piuttosto che permettere che suo marito pecchi. Cercando una spiegazione a questa benedizione religiosa impartita al sesso su richiesta nel contesto della posizione della Chiesa, virulentemente contraria al piacere sessuale, Ranke Heinemann osserva che ben si adatta al concetto cattolico secondo il cui il sesso è una malattia e il sesso coniugale la sua medicina. Ed è vero che questa opinione era ancora condivisa dal padre del protestantesimo, Martin Lutero, il quale pure parlava del sesso nel matrimonio come di una medicina. Ma in pratica, come scrive anche Heinemann, questa idea che gli uomini sposati erano come pazienti mortalmente ammalati, destinati alla dannazione eterna se le mogli infermiere non si fossero sacrificate per loro, rischiando anche la vita pur di ottemperare al loro dovere coniugale, onde fornire la medicina contro l'incontinenza in qualsiasi momento, significava la schiavitù sessuale delle donne. E getta ancora luce sul fatto che l'ossessione della Chiesa nel controllo della sessualità ha ben poco a che fare con la spiritualità, nel senso di una consapevolezza o una sensibilità più evolute. In verità, è mostruoso che con la scusa di salvare gli uomini dal peccato, un sacerdote potesse ordinare alle donne di rinunciare di buon grado alla vita solo perché ai mariti andava di fare del sesso. E ovviamente, un ordine siffatto è in netto contrasto con la posizione della Chiesa, secondo cui, se non è inteso alla procreazione, il sesso è intrinsecamente peccato. Ma quanto andiamo esaminando ha ben poco a che fare con la logica e con la spiritualità. È connesso invece al doppio standard previsto dal dominante per le donne e gli uomini, non solamente nel sesso, ma nella spiritualità, nella morale, persino nella vita e nella morte. Questo doppio standard è stato per millenni giustificato dagli insegnamenti, secondo cui agli occhi di Dio gli uomini sono di un ordine spirituale superiore rispetto alle donne. Si manifesta nel fatto che, sebbene gli uomini siano considerati dal dogma cristiano più spirituali delle donne, Nella pratica ci si aspetta che le donne siano molto più spirituali degli uomini, più nobili, più generose, più pronte al sacrificio. Grazie al doppio standard, per quanto gentile e premuroso sia, la donna, se non sacrifica completamente il suo benessere e persino la vita per gli altri, e in particolare per il marito e i figli, non potrà mai sperare di essere considerata spiritualmente pari all'uomo. E anche allora sarà considerata l'eccezione che conferma la regola, e la regola è che la donna è spiritualmente e moralmente meno evoluta dell'uomo. E ancora, mentre i bisogni sessuali degli uomini e le relative scorrettezze erano considerati naturali dalla Chiesa e dunque più facilmente perdonati e persino condonati, se una donna si abbandonava anche una volta soltanto ai suoi bisogni sessuali, era per tutta la vita segnata col marchio della puttana. E ciò accadeva nonostante il fatto che la Chiesa predicasse anche che la carnalità è l'essenza della femminilità e avrebbe pertanto dovuto essere più disposta al perdono e non più severa nei confronti delle scorrettezze sessuali commesse dalle donne. È questa stessa doppia misura per donne e uomini che la religione organizzata ha contribuito a mantenere con storie come la cacciata dal paradiso, incolpando le donne di tutti i mali degli uomini, a dispetto del fatto ovvio che sono stati in realtà gli uomini e non le donne, in tutto l'arco della storia umana, i responsabili di barbarie quali le guerre e il governo dispotico dell'uomo forte. Ed ovviamente il doppio standard, per tema che la storia di Adamo ed Eva nell'Eden si ripeta, che è servito a giustificare il controllo maschile sulle donne. Quello stesso che, se esercitato da uomini su altri uomini, sarebbe immediatamente chiamato schiavitù. La schiavitù sessuale delle donne. È particolarmente significativo e impressionante il silenzio della Chiesa, che pure aveva una parola da dire su quasi tutto ciò che riguarda il sesso, sul tema della schiavitù sessuale delle donne, in proposito, tuttora per lo più tacciono le istituzioni religiose. Insomma, non ne proibiva le forme più clamorose, né si pronunciava al riguardo. Per esempio, in Europa, presso alcune società, gli uomini solevano, per proteggere il loro onore, costringere le mogli a indossare cinture di castità in legno o in metallo. Ma lo strazio di queste donne, le dolorose infezioni provocate da congegni che impedivano loro di osservare la debita igiene del corpo, l'impossibilità di alleviare l'irritazione cronica, l'eccitazione sessuale, l'umiliazione e la degradazione. Apparentemente neanche sfioravi i mariti, negli storici che di solito trattano fatti del genere come folklore e pruriginoso, né in qualche modo il fatto preoccupava la Chiesa. Ovviamente la schiavitù sessuale delle donne non comincia con il cristianesimo. In effetti lo sfruttamento da parte degli uomini dei servizi produttivi e riproduttivi, compresi quelli sessuali della donna, che troviamo in civiltà europee avanzate come l'antica Grecia e Roma, forse in qualche modo si fece meno duro quando, seguendo il comandamento di Cristo, la Chiesa condannò la poliginia. E rendendo il divorzio difficile, oltre che alle donne, anche agli uomini, la Chiesa sfidò anche l'uso invalso presso molte tribù barbariche all'inizio del Medioevo, per cui un uomo poteva tranquillamente ripudiare la moglie non più desiderata. Tuttavia, la Chiesa non prese mai decisamente posizione contro la pratica consuetudinaria germanica di uccidere le mogli adultere, né, come già notato, prese posizione contro le percosse di cui erano vittime le mogli o contro il predominio degli uomini sulle donne che le percosse servivano in realtà a mantenere. In effetti, la common law inglese che regolava il matrimonio in gran parte deriva da una più antica legislazione ecclesiastica. Permetteva all'uomo di picchiare la moglie se questa non eseguiva i servizi che le erano richiesti con sua piena soddisfazione, esattamente come i padroni avevano il permesso di picchiare gli schiavi se non erano soddisfatti di loro. Per la stessa common law, che servì da modello per il diritto di famiglia nelle colonie inglesi d'America, i mariti non soltanto avevano un potere coercitivo sul corpo delle mogli, ma avevano il pieno controllo delle loro proprietà, comprese le proprietà ereditate o acquisite con le loro fatiche, come pure consuetudinario nello stato di schiavitù, legalmente appartenevano ai mariti. In effetti, per la common law inglese, le mogli, come gli schiavi, erano non persone, al punto da non poter ricorrere in tribunale né essere citate in giudizio. Pertanto, se una moglie veniva lesa da una terza parte, i danni andavano al marito come risarcimento per la perdita dei servizi sessuali e di altro genere che aveva subito, proprio come si risarciva il proprietario di schiavi se il corpo di uno schiavo subiva delle lesioni. Ancora una volta, dato il perdurare di questa visione delle donne intese come proprietà maschile, è per noi arduo confrontarci con il fatto che lo status legale delle donne è stato fino a poco tempo fa, e a volte lo è tuttora, nel migliore dei casi, quello di schiave parzialmente emancipate. Accecate dal doppio standard di repressione per donne e uomini, tendiamo a negare questa spiacevole realtà, nonostante i tanti indizi rivelatori. Un esempio noto è la diffusa usanza del padre che dà la figlia in sposa accompagnandola all'altare, dove il marito prende il suo posto. Un esempio meno noto è il fatto che quando i colonizzatori americani importarono i neri dall'Africa e si guardarono attorno per trovare una legislazione da applicare allo status di schiavo, scelsero come modello la common law inglese che regola lo status delle donne sposate. Un altro esempio ancora è che la normale giustificazione data al severo controllo esercitato sugli schiavi neri negli stati del sud degli Stati Uniti era la loro sessualità pericolosa selvaggia, esattamente come l'addomesticamento della pericolosa sessualità delle donne è stata molto a lungo nella storia dell'Occidente la giustificazione del severo controllo esercitato dagli uomini sulle donne. Notoriamente, nel corso della storia, gli schiavi che si ribellavano ai padroni o i sudditi che ammazzavano i signori sono sempre stati condannati ai più tremendi castighi. Se una donna uccideva il marito, per la common law inglese, il delitto era un tradimento pari a quello di un suddito che uccideva il sovrano e pertanto la pena non era soltanto la morte, ma una morte lenta e orribile, mediante torture sulla pubblica piazza. In altri termini, in tutti questi casi si infliggeva pubblicamente un castigo esemplare e dolorosissimo per scoraggiare chi meditasse la ribellione. Ma non ci si limitava a infliggere punizioni crudeli alle donne che cercavano la libertà ribellandosi contro il controllo maschile, e la consuetudine, come abbiamo visto nella parte prima, risale ai primi codici redatti in Occidente. La soggezione coniugale delle donne e il loro asservimento sessuale agli uomini erano spesso garantiti dalle costrizioni economiche, dal fatto che per molte donne il matrimonio costituiva l'unica possibilità di lavoro rispettabile. E le donne di campagna lavoravano come serve nelle case degli uomini, dove spesso erano alla mercé degli appetiti sessuali dei padroni. Esisteva la prostituzione, una professione in cui le donne perdute vendevano i loro servizi sessuali a parecchi uomini invece che a uno solo, per assicurarsi la sopravvivenza economica. E a dispetto di tutti questi ostacoli, c'era sempre un gruppuscolo di donne che cercavano di farsi strada nelle arti e nelle professioni. Ma per la maggior parte delle donne dell'aristocrazia e poi delle classi medie, la professione prevista, e spesso l'unica scelta possibile per campare, era sposarsi e rimanere sposate, anche se la situazione era penosa o addirittura insopportabile. Ed essere sposata, che amasse o detestasse il marito, che questi fosse gentile o crudele, attraente o ripugnante, le desse piacere o dolore, significava che per legge la donna doveva avere rapporti sessuali con lui perché questi rientravano nel contratto di matrimonio, che le imponeva anche di portare avanti tutte le gravidanze che il marito desiderava. Specificamente, siccome lo stupro coniugale ha cominciato a essere riconosciuto come crimine soltanto sul finire del XX secolo, ciò significava che alla moglie era legalmente richiesto di essere sempre sessualmente disponibile per il marito, anche se ciò avveniva con la forza e contro la sua volontà. Il fatto che donne e uomini cercassero di mantenere relazioni di relativa eguaglianza e che nonostante tutto ci fossero mogli e mariti uniti da vero affetto, dimostra ancora una volta il grande potere del desiderio umano di connessione affettuosa, così come la capacità delle donne, a qualunque costo, di asserire la loro umanità e di avere voce in capitolo nella loro vita. Ma ciò non cambia comunque il fatto che le donne, che non erano in grado di trascendere gli stereotipi della dominanza di una femminilità docile, o tanto fortunatamente da sposare uomini per bene, erano legalmente alla mercé dei mariti, esattamente come gli schiavi sono alla mercé dei padroni. E non a caso padrone è l'appellativo tradizionale del capofamiglia anche in tempi moderni. In breve, non cambia il fatto che lungo quasi tutto l'arco della nostra storia il matrimonio fu una forma legalmente sanzionata di schiavitù sessuale per le donne. Torniamo dunque ancora una volta al doppio standard di genere e insieme al doppio standard per la schiavitù. Alla parola schiavitù, oggi quasi tutti indietreggiano inorriditi, ma se si parla di schiavitù sessuale delle donne, molti tuttora si sentono tutt'al più stuzzicati. Evoca infatti non un oltraggio, una crudeltà, un'ingiustizia, ma fantasie pornografiche sadomasochiste, o nel migliore dei casi, quei romanzi rose in cui i maschi imperiosi gettano le donne ai loro piedi e torride scene d'amore, inizialmente contro la volontà dell'eroina, precedono il loro allontanarsi insieme nella struggente luce del tramonto. In questi romanzi l'eroina è impotente, incapace di resistere sia all'eroe romantico sia alle proprie sensazioni sessuali illecite. E come nel famoso film con Rodolfo Valentino, il figlio dello sceicco, in cui un principe arabo rapisce l'eroina e le si butta addosso, queste storie di solito si concludono con un bel lieto fine. Ma nella vita reale le cose vanno diversamente. Per secoli, ancora oggi, le donne sono state rapite per essere rinchiuse come prigioniere negli harem degli sceicchi arabi. Come scrive Kathleen Barry nel suo poderoso Female Sexual Slavery, esistono racconti di testimoni oculari che parlano di vendita all'asta di schiave in regioni dell'Africa e dell'Asia, in cui donne pesantemente drogate, talvolta con indosso ancora gli abiti che portavano al momento del rapimento, sono vendute al miglior offerente. Spesso sono messe in vendita anche delle bambine, per esempio in una conferenza sulla schiavitù del 1991 è stata ben documentata una sta pubblica del 1990 negli slum di Karachi, in cui venivano offerte bambine tra gli 8 e i 10 anni provenienti dal Bangladesh. Le sofferenze, fin troppo spesso la morte prematura di queste donne e di queste bambine, tragicamente smentiscono il concetto che la schiavitù sessuale è una gran bella sorte, per la verità, per le famiglie. E migliaia di bambine ancora più piccole che vengono oggi vendute e comprate in India, Nepal, Thailandia e altre nazioni, ancora per rifornire i quartieri a luci rosse e prendere il posto di quante le hanno precedute e sono rimaste contagiate dall'AIDS, ciò troppo spesso significa morte sicura. Alcune di queste bambine sono vendute dai genitori medesimi, destinate alla prostituzione o costrette a sposarsi. E non cambia nulla, anche se un caso è portato all'attenzione del pubblico, come quello della bambina che un programma televisivo mostrò nel 1993. Una bambina la cui vendita ammantata da un matrimonio fasullo a un vecchio dell'Arabia Saudita era stata sventata da un'oste scoraggiosa. La bambina fu messa, per cominciare, in una casa di correzione per giovani delinquenti e quando i gruppi femministi protestarono, invece di permetterle di restare con la donna che l'aveva salvata e aveva ottenuto l'autorizzazione a tenerla presso di sé dal tribunale indiano, fu consegnata dalle autorità proprio ai genitori che l'avevano venduta. Nel contempo, l'acquirente, invece di finire in galera o almeno di essere condannato a pagare un'ammenda, restò impunito. È davvero spaventoso che simili cose possano verificarsi, persino ora che la vendita delle bambine a scopo matrimoniale è dichiarata illegale in India e che nonostante ciò i genitori non siano stati in nessun modo penalizzati. Purtroppo, la mancanza di un'azione ufficiale contro la schiavitù sessuale non è l'eccezione, ma la regola. Molte testimonianze parlano di donne e bambine brutalmente terrorizzate affinché neanche tentino di fuggire dai bordelli, a cui in qualche caso sono state vendute dai genitori medesimi. Se poi tentano comunque la fuga, non hanno nessuno a cui ricorrere, poiché spesso le autorità locali, direttamente o indirettamente, traggono profitto dall'industria della prostituzione. Nemmeno l'Interpol e altre organizzazioni internazionali che sono a conoscenza di questo commercio di donne e bambine sono riuscite a far granché. E ciò a dispetto del fatto che nella sola Asia, secondo le stime, 1 milione o più di donne e bambine vengono ogni anno negoziate come merci in borsa, senza alcuna interferenza da parte del governo e spesso con il suo tacito consenso. E nonostante le molte convenzioni delle Nazioni Unite che proibiscono la schiavitù e il fatto che l'asservimento sessuale sia stato specificamente dichiarato una violazione della legislazione internazionale. La repressione sessuale politica. Chiaramente la servitù involontaria è schiavitù, che i servizi siano sessuali o di altro genere. Ma l'erotizzazione della dominanza ci ha condizionato ad accettare l'asservimento sessuale delle donne da parte degli uomini non soltanto come normale, ma addirittura come eccitante. E ha anche offuscato il fatto che l'asservimento sessuale delle donne è andato di pari passo, storicamente e culturalmente, con l'asservimento politico ed economico sia delle donne sia degli uomini. Tanto per dare un esempio, in talune teocrazie fondamentaliste islamiche, in cui le misure più repressive della Shari, la legge divina islamica, sono ancora o di nuovo in vigore, tuttora le donne vengono praticamente tenute prigioniere dagli uomini che sono legalmente autorizzati a limitare severamente la loro libertà di movimento. La cosa venne alla luce quando, durante la guerra del Golfo, alcune donne coraggiose dell'Arabia Saudita sfidarono il divieto di guidare l'automobile e poi, assieme alle famiglie, la pagarono a caro prezzo. E non a caso, queste società rigidamente dominate dal maschio sono anche i luoghi in cui i monarchi assoluti e o le gerarchie sacerdotali coercitive governano uomini e donne con il pugno di ferro. Similmente, le brutali mutilazioni genitali, destinate a far sì che per certo le donne non si perdano, sono tipiche di zone dell'Africa, dell'Asia e del vicino Oriente, in cui i governi dittatoriali controllano la popolazione con la paura e con la forza. L'imposizione della schiavitù sessuale delle donne mediante il delitto d'onore, in zone dell'America Latina, come dell'Asia e del Medio Oriente, è pure caratteristica di luoghi in cui i regimi repressivi non vedono niente di sbagliato nell'uso della violenza fisica per privare della libertà politica le donne come gli uomini. Neanche questo è casuale. Gli uomini che considerano onorevole uccidere le mogli, le figlie, le sorelle e persino le loro madri perché sessualmente libere, hanno appreso che la libertà è una questione di scelta che le persone inferiori, deboli o pericolose non sono autorizzate ad assaporare. In effetti, il modo in cui il disprezzo maschile per le donne si tramuta in disprezzo per i nemici effeminati fu drammaticamente illustrato durante la guerra del Golfo, quando, dopo la sconfitta degli iracheni, nel Kuwait alcuni uomini espressero il loro disprezzo per Saddam Hussein, dipingendogli le labbra con il rossetto su un poster che lo ritraeva. Il diniego del libero accesso alla contraccezione e all'aborto, altra forma di schiavitù sessuale, ha anch'esso storicamente e culturalmente caratterizzato regimi politici repressivi. E neanche questo è casuale, perché uomini condizionati a non trovar nulla di sbagliato nel privare le persone amate, mogli, figlie, sorelle o madri, della libertà di scelta, al punto da costringerle contro la loro volontà a restare incinte, o una volta incinte a partorire contro la loro volontà un figlio indesiderato, possono essere molto più facilmente condizionate ad accettare la restrizione di altre libertà, come la libertà di parlare e di riunirsi. Pertanto, la rinnovata enfasi di Hitler e Stalin nel criminalizzare l'aborto, quando conquistarono il potere, non mirava solo a ottenere un aumento della popolazione e quindi degli uomini che sarebbero diventati carne da cannone, ma metteva in atto una dinamica tipica dei sistemi della dominanza. Vediamo oggi in atto la stessa dinamica negli Stati Uniti, nel fatto che coloro che vorrebbero riportarci al buon tempo antico, in cui le gerarchie religiose detenevano un potere autoritario, hanno ingaggiato una campagna senza esclusione di colpi per privare ancora una volta le donne dell'aborto e della libertà di scelta. In breve. Che siano laici o religiosi, cristiani o musulmani, antichi o moderni, orientali o occidentali, i tempi e luoghi in cui troviamo la massima repressione sessuale delle donne sono di solito anche i tempi e luoghi in cui più severa è la repressione politica. Eppure, ancora ai giorni nostri, la connessione tra libertà o repressione per le donne e libertà politica o repressione viene generalmente ignorata. In parte il problema è che la repressione politica o oppressione dell'uomo, come dicono gli studiosi della politica, è considerata una questione fondamentale che merita un serio studio, mentre per il doppio standard di genere vigente, quel che accade alle donne, e in particolare quel che accade loro a livello sessuale, è una banalità. Un'altra parte del problema sta nel fatto che la connessione qui in esame tra struttura ideologica e sociale e il modo in cui diversi corpi umani sono immaginati, e specificamente il modo in cui le relazioni tra corpo maschile e corpo femminile sono immaginate, è tuttora quasi ovunque ignorata. Un'altra parte ancora del problema è la rigidità delle settorializzazioni e delle specializzazioni accademiche, che contribuisce ad assicurare che, fatta eccezione per le studiose femministe, anche coloro che oggi studiano seriamente i rapporti sessuali di genere di solito continuano a concentrare la loro attenzione solamente sulle implicazioni psicologiche e non su quelle politiche. Un'eccezione egregia a questo approccio frammentario l'attuò lo psicanalista tedesco Wilhelm Reich, il quale introdusse quella che chiamo sociologia sessuo-economica, per spiegare sia l'ascesa di Hitler in Germania, sia il motivo per cui in Russia la sostituzione del capitalismo privato con il capitalismo di Stato non ha minimamente alterato la tipica struttura autoritaria e imponente delle masse popolari. In effetti, la libertà sessuale degli uomini non è incompatibile con una società repressiva, autoritaria e molto violenta, in cui gli uomini sono liberi di esprimere quella sessualità che equipara la virilità al predominio. Per esempio, nella Germania nazista, sotto una fitta coltre di retorica puritana, agli uomini nazisti non era proibito il sesso. Al contrario, poco prima della sconfitta nazista per rialzare il morale vacillante delle truppe, Hitler promise che gli eroi di guerra decorati sarebbero stati legalmente autorizzati, come i musulmani, a prendersi più di una moglie come ricompensa per la loro eroica virilità. Similmente, la cultura violentissima e repressiva dei samurai in Giappone non limitava la libertà sessuale maschile, come tra gli ateniesi dell'antica Grecia, tra i guerrieri samurai erano apertamente autorizzate relazioni etero e omosessuali. Ma come tra i nobili guerrieri greci, i rapporti sessuali tra uomini erano considerati corretti solamente se tra ineguali, con il guerriero più anziano che assumeva il ruolo maschile e un ragazzo che assumeva il ruolo che altrimenti sarebbe spettato a una donna. E, il che non sorprende affatto, nella società dei samurai, come presso gli ateniesi, i rapporti sessuali tra maschi erano favoriti proprio perché le donne erano tenute nel massimo disprezzo. Persino nell'Iran fondamentalista, nonostante le severe restrizioni morali e persino le esecuzioni capitali di uomini e donne per immoralità sessuale, entro limiti religiosamente sanzionati, gli uomini godono di un'ampia libertà sessuale. Infatti, dopo la presa del potere dei mullah, è stato istituzionalizzato quello che chiamano un matrimonio temporaneo, che è in sostanza un commercio sessuale di donne religiosamente amministrato, in cui loro prendono il posto delle prostitute, che gli stessi uomini uccisero quando chiusero i bordelli iraniani. Quindi, nemmeno nelle società teocratiche della dominanza la sessualità maschile è sempre repressa. Inoltre, in molte società della dominanza, il libero accesso alle donne è per la verità facilitato piuttosto che proibito dalla legge e dagli usi e costumi. Insomma, il fattore critico quando si parla di repressione politica non è la repressione della libertà sessuale maschile, né la negazione del diritto inalienabile dell'uomo. Nelle società repressive i fattori critici a livello politico sono, primo, la repressione della libertà sessuale della donna e, secondo, la distorsione della sessualità maschile e femminile mediante l'erotizzazione della dominazione e della violenza. E questi due fattori sono inestricabilmente interconnessi, non soltanto tra di loro, ma anche con il mantenimento dei modi di pensare e di sentire che si frappongono a un fondamentale cambiamento sociale, economico e ideologico.